Yo creo que las papuelitas son de pit, pit. Questo è come un farmaco blando, tipo benzodiazepina, angolo in cui sono immerso. Rimango qui come un capoverso scritto all'inverso, difficile da leggere, altrettanto da interpretare, ma per me normale. Un'astronave che passa, assa, assa, assa, con il cracking di petto, pipetta, pipetta. Facciamo una festa, la mia banda si estende dalle Alpi alle Ande. In tutte queste cose ci metto un pisellone piccolino, un grande mutande. Rimango qua a craccare, chef cracco è un pacco rispetto a quello che posso fare in cucina. Con un cucchiaio, una perlina di coina. Rimango qui con i miei fravolare, volare. Il mio rap è magistrale. Ci sono cose che non ti potrai spiegare una volta fatto, ma rimane il patto con il diavolo fatto, angelica e diabolica, angelica e diabolica come la cocaina. La mia anima la prendo ogni mattina e la sparo nello spazio. Rimango quello pazzo, questa base mi sta eccitando, mi sta per eccitare, un rallentatore mi interrompe persino la base di questa canzone, ma rimango quello di successione, pazzo, sì, rimango un figo, strafigo, strafato e pazzo, sì, perché ci metto il cazzo su sta base, è per questo che l'intelletto tuo reagisce, agisce per vie misteriose, ritrova le tue segrete spose. Angelica, ti vorrei abbracciare come in un tango. Rimango qua, rimango, rimango per sempre con te in questa stanza. E se vorrei forse una mezza tossicale, sappia nemmeno cos'è la coca. Rimango qua in overdose, conoscenza della mia nuova sposa. Rimango qua, feeling Mr. Feeling, dall'aldilà sento soltanto platera. E sarà che il mio arsenale non è ripulito, ho una mano in 4-5-6 che non spara da mai, ma che vorrebbe essere da collezione, e dai.